E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Yo yo. Come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. E allora la trama della puntata di oggi è sugli incontri tra musicisti differenti. Eh sì, infatti nel jazz questa particolarità c'è molto molto presente. Infatti molti musicisti hanno collaborato magari per un pezzo, per un album soltanto, o magari in più riprese poi a distanza di anni. E allora cominceremo con dei brani vocali, cantati, per poi passare piano piano agli strumentali. Con che cosa cominciamo? Allora, iniziamo con quello che è forse il duetto più prestigioso. Storico, proprio. Più. Sì. Duke Ellington amava dire che il duetto più bello è quello fra un uomo e una donna, e qui proprio siamo ai massimi livelli. Lui è Louis Armstrong, lei è Ella Fitzgerald, e questa è una registrazione del 1956 con Oscar Peterson al piano, Herb Ellis alla chitarra, Ray Brown al contrabbasso e Buddy Rich alla batteria. I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? But by that day, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends? Can we be friends? Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Wonder why? Yes. I should have seen the signal to stop. What a flop! This is how the story ends. I let him turn me down and say, can't we be? Can't we be? Can't we be? Can't we be? Can't we be? Can't we be? E allora interlacceremo questi incontri tra musicisti con sempre uno dell'incontro prima con quello dopo. Sì, adesso siamo l'anno successivo, è l'ottobre del 1957, siamo sempre Verve come casa discografica, e l'incontro è quello storico fra Louis Armstrong e il trio di Oscar Peterson, che era coloro che suonavano anche sotto quel disco con Ella Fitzgerald, e quella che ci andiamo a sentire è That Old Feeling. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling, babe. The moment you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still, yes. Once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start. But that old feeling is still in my heart. Yes, I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, mama, I got that old feeling, babe. Yes, the moment you danced by, I felt a little thrill. Yes, when you caught my eye, baby, my heart stood still, baby, baby, oh. And once again I see to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling bed is still in my heart. Baby, just still my heart. Beh, diciamo che in questo gioco Louis Armstrong merita la tripletta. Sì, a me poi Louis Armstrong mi fa sempre ricordare al Natale, perché è quel classico artista che si tira fuori nel periodo natalizio. Questo adesso che ci andiamo a sentire è del 1961 e già il titolo la dice lunga, perché è The Great Summit, ossia l'incontro fra Louis Armstrong e Duke Ellington. Sono 17 pezzi, uno più bello dell'altro, e tutti a firma di Duke Ellington, e questo che ci andiamo a sentire, I Don't Mean a Thing. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing. Ain't got that swing, boy. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Got a swinger. Take it, chummy. Beh, un pezzo storico rifatto in numerose versioni, forse colonna sonora anche di un film, ma non ricordo quale, ma insomma... Assolutamente, sì, hanno fatto svariatissime versioni di questo brano celeberrimo. Adesso direi di lasciare la voce di Louis Armstrong e continuiamo invece con le composizioni di Duke Ellington. Questo è un incontro altrettanto storico ed è una formazione ridotta in cui spicca l'incontro, è quello fra Duke Ellington e Johnny Hodges, che era il suo... contralto preferito della sua orchestra, e questo loro rifanno 7 brani, questo brano uscito, questo disco uscito per la Verve, 7 brani blues, e questo è St. Louis Blues. Tra l'altro c'è una celeberrima versione di Louis Armstrong di St. Louis Blues. fantastico, tra l'altro uno su un canale e l'altro sull'altro, con un vecchio stile, diciamo, di registrazione. Eh sì, e alla tromba c'era proprio Harry Sweet Harrison, pure lui dal suono molto molto dolce. Sì, decisamente. E adesso continuiamo a gustarci il sassofono contralto di Johnny Hodges, qui in coppia con il più famoso sax baritono nella storia del jazz, ma anche un grandissimo arrangiatore, ossia Jerry Mulligan. Gli anni sono sempre quelli, siamo nel 1958 e il pezzo è Sunny. Sono incredibilmente caldi e freschi dall'altra, perché il suono caldo di Jerry Mulligan si contrappone al contralto molto più alto di appunto Johnny Hodges, e questo è forse il miglior cool jazz che si può sentire. A me evocano due personaggi di cartoni animati che si alternano sulla scena. Veramente fantastico, una accoppiata vincente. E allora rimaniamo sempre con Jerry Mulligan, qui lo troviamo in quartetto con un altro grande che in realtà forse non abbiamo mai passato, ossia Thelonious Monk. Beh, forse qualcosa sì, forse in una delle varie monografie sì. Forse sì, però insomma ora raramente, sì. Ce lo gustiamo appunto in questo quartetto, siamo ad agosto del 1957 e questo è I'm in You, che è uno dei brani più famosi scritti proprio da Monk. Thank you. Abbiamo occasione per risuonare Thelonious Monk in questa puntata. Assolutamente, ne approfittiamo. E questo che adesso ci andiamo a sentire in realtà è un disco di Monk in solo, infatti si chiama Thelonious Himself, ma l'ultima traccia ha come ospite John Coltrane e William Ware al contrabbasso. Infatti Coltrane in quegli anni, siamo nel 1957, andava spesso a casa di Monk a studiare, anche se poi raccontava che in realtà Monk gli apriva, gli dava degli spartiti e si rimetteva a dormire per giorni senza proferire parole. Un fattone è Monk. E poi uscirono tra l'altro diversi bootleg, soprattutto perché i due collaborarono, Coltrane andò a suonare nel quartetto di Monk, però solo in situazioni live. Questa invece in studio ed è Monk's Mood. praticamente in duo Monk e Rollins. Il contrabbasso entra solo adesso, abbiamo sentito poche note prima. Allora, da un trio decisamente inedito passiamo a un quartetto più standard. Siamo nel 1954 e lui è il nuovo l'incontro di Monk con quello che se la batteva con Sonny Rollins come il miglior sassofonista anche della storia, non solo di quegli anni. Lui è Sonny Rollins e questa è I Want to Be Happy. Sound totalmente diverso. Beh, anche Monk ha guadagnato la tripletta come Louis Armstrong in questa puntata. Se la merita, eh. Decisamente sì. Vi ricordo che la radio non campa d'aria, quindi vi esorto a cattarvi la scarceranda, bellissima anche quest'anno come ogni anno. Potete pure sottoscrivere per la radio o passando qua via De Volci. O utilizzando il conto corrente postale numero 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma. Ricordiamo anche la pagina Facebook della nostra trasmissione, ossia facebook.com/atticablues. E allora, l'eterna rivalità fra Sonny Rollins e John Coltrane culminò proprio in quel 1959, a cui abbiamo proprio dedicato anche una puntata. E era un anno storico in cui Coltrane se ne uscì con Giant Steps, un pezzo davvero rivoluzionario in quanto non aveva un centro tonale, e che provocò in Sonny Rollins l'uscita delle scene. Praticamente lui era il sassofonista più in voga e per due anni sparì completamente dalle scene e andò a suonare sotto il ponte di Williamsburg, che collegava appunto Manhattan con Brooklyn, ponte di New York famosissimo. Eh sì, e poi lui uscì poi nel 1961 appunto con l'album che si intitolava The Bridge. Diciamo pure che Sonny Rollins non ha mai suonato un pezzo scritto da John Coltrane, e invece Coltrane ne suonò parecchi scritti da Sonny Rollins. E un incontro avvenne storico nel 1956, è l'unico incontro fra i due in cui suonarono insieme in un pezzo appunto scritto da Sonny Rollins, che diede pure vita che diede il titolo all'album Tenor Madness, appunto in quartetto con i due sassofoni Sonny Rollins e John Coltrane. D'altronde abbiamo fatto Monk e Coltrane, Monk e Sonny Rollins, e adesso Sonny Rollins e Coltrane. Ed eccoli qua, uno al canale destro e uno al canale sinistro. Questa è l'ultima puntata per quest'anno 2015 per Attica Blues. Un po' di meritato riposo? Eh sì, pure perché giovedì capitano uno a Natale e uno a Capodanno. Quindi ci risentiamo col 2016. Un saluto a tutte e a tutti e buon anno. We'll be right back.